English 24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Benvenuti alla prima di due puntate che dedicheremo al mondo dell'arte contemporanea. Un mondo, Giulia, che io trovo sempre un po' misterioso, perché ci sono opere che io non capisco tanto, anzi non capisco per nulla, e che vengono vendute a cifre esorbitanti. Ecco, cercheremo di saperne di più in questa e nella prossima puntata, aiutandoci anche con alcuni servizi che abbiamo tratto dal nostro mensile English 24 in edicola. Il primo lo stiamo per ascoltare insieme, è tratto dal New York Times e ci racconta un po' queste cifre pazzesche. Perché vengono spese? Sentiamo. Lucian Freud's painting Benefits Supervisor Sleeping recently set a sale record for a living artist at $33.6 million. Does this symbolize a thriving art market? Is it a happy exception, or is it even worth the price? According to one estimate, the money paid for the painting could have paid for 20 minutes of America's gasoline consumption. What may help in general is that Lucian Freud is not only a great painter, but also the grandson of Sigmund Freud, the psychoanalyst. He's got a good biography, in other words, and some collectors may like that. Allora Giulia, viene subito citato un dipinto di Lucian Freud che noi vediamo nel mensile in edicola. Questo dipinto cosa ritrae e come si intitola? È un titolo strano, si chiama Benefits Supervisor Sleeping, quindi il Benefits Supervisor è una figura del welfare britannico, è colei che supervise, quindi che decide, dirige tutto il settore dei benefits. Ed è sta dormendo, quindi is sleeping. Chi ha visto il quadro che è stato un po' pubblicato su tutti i giornali perché ha fatto questo record, è una donna nuda, diciamo molto in carne, niente di botteriano, però non c'è niente di naif, ma molto di naturalistico, perché Lucian Freud è famoso proprio per non fare concessioni di alcun genere alle persone che ritrae. Per niente naif il prezzo a cui è stato venduto. Sì, è un sale record for a living artist, cioè appunto è un record di vendita per un artista vivente. Lucian Freud infatti ha superato gli 80 anni ma è ancora vivo e in piena attività. Il record è di $33.6 million, cioè 33,6 milioni di dollari, circa 30 milioni di euro. Ma la domanda è: ne vale la pena? Ne vale la pena. Is it worth this price? È molto difficile, forse più facile con Lucian Freud che con altre opere di arte contemporanea. Io credo che il valore del quadro colpisca chiunque lo guarda, magari a differenza di altri lavori come Le mucche di Damien Hirst, per esempio. Però è forse invece il simbolo di un thriving art market. Thrive vuol dire fiorire, andare bene, essere esuberanti, quindi un art market che va molto bene, oppure, si chiede il New York Times, è una happy exception, è una felice eccezione di invece un mercato dell'arte che è in crisi come ogni altro mercato? Fa una comparazione sul prezzo del quadro e cosa il New York Times? Sì, perché queste cifre, no, sono abbastanza, 30 milioni di dollari per un quadro, ma che cosa vuol dire? Vuol dire per esempio che con questa cifra si pagano 20 minutes of America's gasoline consumption, cioè per 20 minuti gli americani, che sappiamo sono i più grandi consumatori pro capite di benzina, gasoline, ecco, questo quadro per 20 minuti pagherebbe i consumi di benzina di tutti gli americani. Beh, per concludere da questo estratto io direi, certo, Lucian Freud è un bravissimo pittore, ma il New York Times sottolinea un altro aspetto. Yeah, that he's got a good biography, che ha una buona biografia. Perché? Perché come sappiamo è il grandson, cioè il nipote, grandfather, nonno, grandson, nipote di Sigmund Freud, lo psicanalista che tutti conosciamo. Record per Lucian Freud, un altro record è stato battuto recentemente anche per Jeff Koons. Noi l'abbiamo conosciuto in Italia anche perché è stato marito della notissima Cicciolina, ma è soprattutto un artista quotatissimo, e sentiamo cosa pensa lui della sua arte proprio dalle sue parole. Jeff Koons. I've created kind of my own life as an artist, but it's never about money. I think it's, you know, when people want to do things in life, it's about being engaged, and I've always wanted to participate. From the time that I was young, I wanted to be involved in the community of art and artists and the dialogue. You know, the financial aspect, you know, it's wonderful that these things have a certain value. It's nice for my family. It's nice for myself. But it's just one way that people can show appreciation for something. And so it may be that it's just the way it helps somebody feel about life or type of energy it gives them. And the economic value is just one reflection of that. Ecco allora Giulia, Jeff Koons ce lo dice, non è una questione di soldi. Sì, così ci dice, poi naturalmente bisogna sempre vedere, no? Chi ne ha tanti è forse più facilitato a dire it's never about money. Ma comunque, insomma, lui dice I've created kind of, questo kind lo risentiremo anche nel brano successivo, letteralmente vuol dire tipo, una sorta di, però diventa un intercalare in inglese, quindi comunque possiamo tradurre I've created kind of my own life as an artist, è una sorta di mia personale vita d'artista che mi sono creato. Lui ha sempre desiderato fare quello, insomma, i soldi gli importano soprattutto per quanto riguarda la sua famiglia come segno di apprezzamento. Sì, usa questa forma che sappiamo significa dà l'impressione di una cosa che si è protratta nel tempo, quindi I have always wanted, quindi non I always wanted, but I have always wanted to participate. Ho sempre voluto per tutta la mia vita, da quando ero giovane, partecipare, to be engaged. E poi, vabbè, il fatto che tutto questo abbia un certain value per il mercato, un certo valore, è nice for my family, nice for myself, questo almeno lo ammette, che insomma non è male che i propri lavori vengano venduti a prezzi molto alti. Un quadro, un'opera, una scultura venduta bene vuol dire che è molto apprezzata, lui riconosce questo. Sì, dice che c'è una, come se chi la compra o chi la valuta ci fosse un type of energy it gives them, cioè che quest'opera dà una certa energia e quindi economic value it's just one reflection of that, cioè il valore economico è solo una delle possibili uno dei possibili riflessi che questa energia dà al quadro. A proposito di artisti molto ben quotati, c'è anche una donna, una scultrice inglese, l'ascoltiamo insieme, si chiama Rachel Whiteread. I think I've always worked in a way that's been, you know, it's just like taking it step by step and it's been in a very linear way. Essentially it's been like a kind of a thought process that's been illustrated by sculpture and I think as my language has developed and as my kind of thoughts have developed that's changed and obviously now I have this much larger kind of vocabulary that I can work with which is actually kind of more daunting in a way as well you have far more choices so you have to you know spend a long time scratching your head before you finally actually make it whereas I think initially it was very much a process of enjoying new materials, working out how to work with colour, working out how to work with form, working out how to make something sort of sit on the floor or lean against the wall. And now I kind of have all this information. Questo è un aspetto che abbiamo sentito anche da molti scrittori che abbiamo incontrato invece il mese scorso, raccontano la loro evoluzione, dicono abbiamo preso tutto passo dopo passo e abbiamo poi creato la nostra personalità di artista. Lo dice anche lei da scultrice. Sì, usa sempre questa forma, I have always worked in a way that has been, quindi ho sempre lavorato in un modo che è stato come taking it step by step, quindi facendo passo per passo, noi diciamo passo dopo passo, passo per passo, in inglese è step by step, taking it step by step, e dà proprio l'idea anche della crescita. È chiaro che se si fanno le cose passo dopo passo, ogni volta che si fa un passo vuol dire che si è imparato tutto quello che era venuto prima, e quindi è stato un, dice lei, has been in a very linear way, quindi un percorso di crescita continuo ma lineare. E poi diciamo che ha sviluppato una sorta di suo vocabolario, un suo linguaggio attraverso la scultura. Questa è una cosa che piace molto dire agli artisti, no? Che c'è appunto il linguaggio, ogni artista ha un suo vocabolario, che non è certo quello appunto della lingua italiana o della lingua inglese, è un kind of a vocabulary, torna a quell'intercalare che dicevamo prima, e my language has developed, anche qui questa formula non developed ma has developed, per dare ancora l'idea di questa cosa che è lineare lungo il tempo, step by step. A un certo punto utilizza un termine more daunting. Sì, dice che ancora kind of more daunting in a way. Cioè questo avere questo linguaggio sempre più ricco è una cosa che è più è una sfida maggiore. To daunt vuol dire sfidare, quindi è più sfidante, è una cosa che è più, diventa anche più difficile se vogliamo, in a way, in un certo senso. Perché? Perché un artista ha far more choices, avrebbe potuto dire many more choices, usa questo far che è letteralmente lontano ma che in italiano possiamo tradurre con molte più scelte. Ed è buffo anche come lei si esprime in maniera molto materiale, visto che lei fa la scultrice, insomma, racconta un po' come lavora anche fisicamente. Sì, dice proprio perché uno ha far more choices, e allora quando si hanno tante scelte cosa si fa? Bisogna chiedersi cosa fare. Allora in inglese si dice scratching head, cioè di grattarsi la testa letteralmente, no? È una figura anche, diciamo, nota nei fumetti, quando uno non sa cosa fare si gratta la testa perché è dubbioso, e quindi lei dice in un certo senso faccio molto di più questo, cioè prima di iniziare I scratch my head much more. Beh, è un po' come il nostro vocabolario di inglese. Io vi rimando alla lettura di English 24 in edicola. Il nostro appuntamento è sabato prossimo, sempre alla stessa ora. Ringrazio Valeria Bernardi in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.